Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa europea. Tanti temi che ho trovato per questa settimana, anche se naturalmente c'è sempre il grande tema che non ci dimentichiamo mai, anche se magari ne parliamo un po' meno diffusamente, che è quello della migrazione. Ma cominciamo quindi da un sito che si chiama ERCAS, che sta per European Research Center for Anti-Corruption and State Building, un sito che si occupa soprattutto appunto di buone pratiche e anche purtroppo invece del loro contatto, cioè della corruzione nelle politiche pubbliche. Il tema scelto questa settimana è il mito dell'integrità del mondo degli affari tedesco che crolla dopo, naturalmente lo potete immaginare, lo scandalo Volkswagen. Lo scandalo dei motori truccati che coinvolge l'azienda tedesca ha messo in luce un livello spaventoso di integrità imprenditoriale nell'industria della Germania. E non è soltanto l'ERCAS che se ne è occupato, ma sono anche tanti altri studi. Appena un paio di anni fa, si legge sul sito di ERCAS, su uno speciale di Eurobarometer Survey on Business Attitudes Towards Corruption, un sondaggio sugli atteggiamenti imprenditoriali nei confronti della corruzione, aveva reso noto che più della metà delle aziende esaminate credeva che in Germania di regola i contratti di approvvigionamento rientrassero in precisi d'accordi d'appalto che fossero predefiniti. Altre aziende interpellate hanno dichiarato in percentuali analoghe che nella comunità imprenditoriale tedesca il clientelismo verso amici e familiari è molto diffuso. Sounds familiar, direbbero gli inglesi. Vi suona familiare? Crolla, quindi è un po' come sostiene questo sito: se lo scandalo Volkswagen, che sicuramente è gravissimo e che non è propriamente uno scandalo di corruzione, ma sicuramente di cattivissima pratica e di malafede a tanti livelli manageriali e forse addirittura a livelli politici, perché sapete che la Volkswagen è partecipata, oltre che dai sindacati, anche da rappresentanti del land in cui opera, quindi potrebbero anche esserci appunto connivenze politiche, ma questo scandalo ha dato un po' lo spunto per esaminare più da vicino e sfatare, come dice ERCAS, il mito dell'integrità tedesca a tutti i livelli, oltre che della proverbiale efficienza e rispetto delle regole. Vi segnalo che tra l'altro questo articolo lo trovate integralmente tradotto in italiano sul sito di voxeurope.eu, che vi cito sempre perché appunto fa questo lavoro di monitoraggio e di traduzione utilissimo per noi, ma spero per tutti voi. L'indirizzo è www.voxeurope, così come ve lo dico senza la finale.eu. E sempre da questo sito vi segnalo la trascrizione invece di un intervento che è stato trasmesso da France Inter, la radio francese, che riguarda il tema della sinistra europea. L'avevamo un po' toccato nelle settimane scorse con tutti gli appuntamenti elettorali che ci sono stati in Europa, e secondo appunto la radio francese sta emergendo una nuova sinistra europea che deve un po' conciliare alcune pulsioni di sinistra estrema, come possono essere quelle dei movimenti che preferiscono appunto definirsi movimenti che non partiti, Podemos in Spagna, il Movimento 5 Stelle in Italia, che poi forse non apprezzerebbe particolarmente essere chiamato di centrosinistra, però insomma, tanto per capirci, appunto, è quello, come spesso lo accusa anche il centrodestra, è quello un po' l'area di riferimento. E poi però c'è anche una sinistra più riformista, come quella che è stata sconfitta in Portogallo, dove ha vinto un po' a sorpresa invece il partito conservatore dell'austerity. E allora appunto Bernard Guetta, che è un analista politico francese molto, molto attento anche a quello che succede in Europa e non solo nel suo paese, prende spunto proprio da quello che è successo in Portogallo, dove si è votato il 4 ottobre. Da una parte un'alleanza tra i socialisti e la coalizione di destra che il 4 ottobre scorso ha perso la maggioranza assoluta, dall'altra l'apertura su una nuova pagina politica a Lisbona con l'avvicinamento dei socialisti al blocco di sinistra, espressione della nuova sinistra portoghese vicino a Syriza, la sinistra estrema greca, e Podemos, appunto quella spagnola. Così questa era l'alternativa che era davanti agli elettori portoghesi. Fino a pochi giorni prima nessuno avrebbe scommesso sulla seconda ipotesi, cioè, come abbiamo detto, appunto una trasformazione delle alleanze a sinistra. I socialisti portoghesi sembravano destinati a entrare in una grande coalizione con la destra, come ce ne sono altre dell'Unione, per esempio appunto in Italia, come sappiamo, e poi a cominciare dalla Germania. La fine della storia sembrava scritta, ma ecco che dopo un giro di consultazioni approfondite con il blocco di sinistra, il capofila dei socialisti Antonio Costa ha annunciato di aver trovato punti di convergenza con i radicali. È appunto un'occasione questa delle elezioni portoghesi per riflettere su come sta cambiando la sinistra anche nel nostro paese. Alcuni definiscono Renzi un nuovo Tony Blair, o comunque un politico di sinistra, di una sinistra riformista come è stato Tony Blair nel Regno Unito, con tutte le critiche che poi ha anche avuto. Vedremo, insomma, ci saranno tanti altri appuntamenti elettorali, forse anche in Italia, a cominciare dalle amministrative della primavera del prossimo anno, e vedremo appunto come si muovono queste alleanze a sinistra o magari anche a destra per nuove piccole o grandi, kleine o grosse coalizioni. Passiamo a proposito di tedesco, torniamo in Germania e torniamo alla questione dei migranti, perché Angela Merkel, la cancelliera, è tornata sulla questione delle quote e in un'intervista alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, il giornale tedesco di Francoforte, forse il più autorevole di tutti, ha tenuto a precisare che non si illude certo di avere delle false soluzioni alla crisi dei migranti, che non si tratta solo di alzare le quote, in particolare per migranti sappiamo particolarmente ambiti, possiamo dire, o più ambiti di altri, come i siriani, perché sono molto hanno una buona istruzione, un buon livello di istruzione, quindi possono anche sanno l'inglese, alcuni sanno anche il tedesco, sono integrabili più facilmente. La Merkel ha però anche detto: no, io ho fatto tutte queste proposte mettendo in prima linea la Germania nell'accoglienza ai migranti, soprattutto dalla Siria, perché nessuno, e nemmeno la Germania men che meno, può illudersi di controllare i suoi confini completamente, o addirittura di innalzare muri o di chiuderli. A proposito di immigrazione e di come le forze politiche comunque in Germania a volte contestino anche duramente le posizioni di Angela Merkel, che ricordiamole della CDU, il partito cristiano democratico della Germania, quindi un partito di centrodestra, potremmo dire, come è stata per tanti anni la Democrazia Cristiana in Italia. E allora la Süddeutsche Zeitung ha parlato del compleanno di Pegida, che è questo non partito ma movimento di estrema destra xenofobo, che in Germania ha preso molto, sta aumentando molto i consensi, e vedremo anche lì ai prossimi appuntamenti elettorali quanto questo si tradurrà poi in voti. Comunque il 19 ottobre, che era lunedì scorso, Pegida ha celebrato un anno dalla sua nascita e ha portato 20.000 persone in strada a Dresda, perché questa è la città dove è nato questo movimento, ed è stato un giorno segnato da scontri e tensioni. Ne hanno parlato tutti, in primis la Süddeutsche Zeitung, un giornale, mentre la Frankfurter Allgemeine Zeitung è più un giornale conservatore, la Süddeutsche Zeitung è più un giornale progressista, ma poco importa, come dicevo, ne hanno parlato veramente tutti con un certo allarme, perché questo è sicuramente un movimento anti-immigrati, anti-Islam, ed è un fenomeno che allarma la Germania. Il ministro della giustizia Heiko Maas, per esempio, ha detto che è proprio tempo di agire contro Pegida, perché ci potrebbero davvero essere, al di là di questa manifestazione per il compleanno, ogni volta che Pegida scende in piazza c'è sempre il rischio che le manifestazioni degenerino in scontri. Torniamo un attimo alla vicenda Volkswagen su El País, perché sapete che la Germania controlla anche un marchio che una volta era spagnolo e che poi è passato sotto la grande cappello della Volkswagen, che è la Seat. E allora la procura di Madrid, scrive il Paese, si è in realtà pronunciata per l'avvio di indagini nei confronti del gruppo Volkswagen per presunti reati di frode e contro l'ambiente nello scandalo dei motori truccati. È un po' ancora tutto da vedere, ogni giorno arrivano delle notizie o su possibili class action, addirittura azioni dei fondi che hanno azioni Volkswagen nel portafoglio, ma anche la vicenda delle centraline truccate non è ancora chiarissima su quali modelli, esattamente su quali marchi fossero montate, quindi appunto pare che preventivamente, potremmo dire, la procura di Madrid è già pronta anche lei a fare causa, è già pronta a fare causa contro Volkswagen. Vi segnalo un'ultima notizia da Euronews, che riguarda un po' tutti, perché il tema della governance dell'eurozona, di cui spesso si dice va riformata a partire da quella economica, ecco, allora la Commissione europea ha proprio dichiarato questa settimana che si deve arrivare a questa stretta sulla governance, soprattutto in vista del 2025, ci si è dati questo obiettivo, per arrivare a una rappresentanza unica di tutti i paesi dell'Unione Europea al Fondo Monetario Internazionale. La Commissione Europea, che sapete è un po' il governo dell'Unione Europea, ha ottenuto un pacchetto di misure, ma poi sappiamo quanto delicato sia il tema di lasciare un po' di sovranità sulla materia economica, che non sia quella che ha la BCE, che è un po' l'unico nostro organo a livello europeo che poi prende decisioni che hanno conseguenze su tutti i paesi. Ecco, quanto sia invece delicato lasciare un po' di sovranità sui temi economici. E tra l'altro sappiamo che, per esempio, la legge di stabilità italiana è uno di questi argomenti sensibili, e vedremo anche qui quale sarà il parere definitivo di Bruxelles. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.